destinato a correre, destinato a vincere, destinato a credere, destinato a eccedere, destinato a crescere, destinato a incidere, destinato a mordere, destinato a sbagliare.